Sente dai colli fioriti una dolce canzon. Sotto le stelle Firenze un'arcana vision. Brilla il suo cielo d'incanto, l'arno riflessi d'argento. Sembra riudire il bel canto che pur nel 300 schiudeva i veroni. Svegliati ancora, Madonna Fiorentina, tutta Firenze è una veranda in fiore. Menestrello mormora in sordina, il ritornello amore, amore, amore, mentre la mamma russa la serenata passa, quando il tuo cuore bussa, la bocca rossa schiudi per me. Dammi un bacin d'amor, menantropia, fior d'ogni fiore, fiore lettina mia. Mentre le bocche assetate si baciano ancora, bacia la luna le torri e le cupole d'or. Tinge color di violetto il campanile di Giotto. Sode nell'alba lo squillo, la festa del grillo, la festa del cuore. Svegliati ancor, Madonna Fiorentina, tutta Firenze è una veranda in fiore. Un menestrello mormora in sordina, il ritornello amore, amore, amore, mentre la mamma russa la serenata passa, quando al tuo cuore bussa la bocca rossa schiudi per me. Dammi un bacin d'amor, menantropia, fior d'ogni fiore, fiore.